vivessi in un presente di voci oscure, occhi soli come figli, stesi in strada ad asciugare, e tu che li sai capaci di illuminare il sole, e tu li vedrai trattenere tra le ciglia un mare. Occhi cari come sogni, prestati dalla sorte e da restituire. Occhi dolci come deserti, ancora da scrivere su orme d'inchiostro. E tu che le sai capaci di illuminare il sole, e tu li vedrai trattenere tra le ciglia un mare. Passioni rinchiuse in pauli.